Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. I certificati bianchi o titoli di efficienza energetica sono allo stato attuale lo strumento incentivante che si è dimostrato più efficace nel promuovere l'efficienza energetica, ma più in generale direi nel promuovere un sistema energeticamente sostenibile. I certificati bianchi vengono corrisposti a quei soggetti quali effettuano attività di efficientamento energetico, come per esempio industrie, produttori e distributori di energia e le cosiddette energy service company o ESCO, cioè aziende specializzate proprio nell'efficienza energetica. Pensate che facendo il rapporto tra denaro speso ed energia risparmiata o prodotta equivalentemente da rinnovabili, il confronto con le altre forme di incentivazione è davvero schiacciante, con i certificati bianchi che risultano da 5 a 25 volte più efficaci, dove all'estremo opposto in termini di costo-beneficio troviamo il vecchio conto energia del fotovoltaico. In realtà finora l'impatto dei certificati bianchi è rimasto però abbastanza limitato, ma di recente questo strumento è stato riformato, è stato potenziato e i 58 nuovi progetti cui l'autorità per l'energia elettrica e il gas ha riconosciuto i certificati bianchi sembrano segnare un deciso cambio di passo. Ne parliamo con Luigi Carbone, commissario dell'autorità per energia elettrica e il gas. Buonasera Carbone. Buonasera. Allora Carbone, fin qui quanto ci hanno fatto risparmiare e su che cosa si sono concentrati gli interventi finanziati con i certificati bianchi? No, fin qui, cioè dal loro avvio dal 2005, sono un meccanismo abbastanza recente come l'hai ricordato, hanno fatto risparmiare 15,2 milioni di TEP, tonnellate equivalenti di petrolio, riducendo consumi soprattutto nell'energia elettrica, ma anche consumi di gas e consumi di combustibili liquidi e solidi. Ecco, per dirla in un altro modo, parliamo di risparmi intorno al 5% dei nostri consumi nazionali. Insomma, una cifra significativa. Una cifra significativa. L'evoluzione, mi chiedeva. Sì, ecco, perché fino a poco tempo fa il grosso dei certificati bianchi hanno stimolato la diffusione di lampadine ad alta efficienza, riduttori di getto, insomma cose abbastanza piccole. Esatto. Invece in questi ultimi 58 progetti che avete approvato si vede che c'è un trend, un cambiamento importante. Sì, infatti, le prime fasi, le prime direi quasi due fasi di vita hanno riguardato soprattutto, come le diceva, l'illuminazione pubblica, i sistemi di teleriscaldamento, il settore residenziale, appunto le lampadine a risparmio. Adesso con le nuove linee guida che l'autorità nel suo potere di regolazione ha fissato, linee guida che, ripeto, servono per preparare e dare le regole e anche valutare i progetti. Di dargli anche un valore economico, perché diciamo che la modifica consente di riconoscere in modo più puntuale, a seconda del tipo di operazione che si è fatta, un incentivo proporzionale a quanto veramente si risparmia. E voi avete visto un effetto? Sì, abbiamo cercato con le nuove linee guida del novembre 2011 di dare più valore agli interventi strutturali, ecco, passare penso dalle lampadine al risparmio alla bioedilizia, cioè a quel tipo di interventi strutturali che vivono più a lungo e che consentono di risparmiare più a lungo. Come è stato possibile? L'incentivo non può durare più di 5 anni, questo per legge, ma con un coefficiente TAU che noi abbiamo inventato, gli interventi che durano ben più di 5 anni, una lampadina in 5 anni si ripaga tutta. Un cappotto dura 30. Una casa fatta con criteri o addirittura la ristrutturazione di un processo industriale, come ora le dirò, valgono, speriamo noi, per 10, 20 anni, 30 anni. Su questo noi la vita tecnica dell'intervento di risparmio l'abbiamo, come dire, moltiplicata in questi 5 anni. Quindi io avrò l'incentivo sempre per 5 anni, ma ce l'avrò molto maggiorato perché sono anni pesanti, diciamo così, ogni anno vale tanto. Ecco, e qui hanno cominciato le industrie allora a utilizzare i certificati bianchi per fare delle operazioni, lei lo stava accennando, se ci può fare qualche esempio, di ristrutturazione di processi produttivi finalizzate a risparmiare energia. Esattamente, questo è avvenuto sia per i risparmi di energia elettrica sia per i risparmi di energia termica, che pure consumano molto. Per l'energia elettrica abbiamo avuto riforme e ottimizzazioni del processo, per esempio delle acciaierie o dei cementifici. Per l'energia termica si recupera, sempre con questi interventi industriali, si recupera il calore in uscita, per esempio in alcune industrie come quelle alimentari o quelle ceramiche. Non mancano altri esempi, anche altri esempi. Ad esempio, tra le 58 schede, leggo qua e là, c'è alcune che riguardano la sostituzione degli impianti di pompaggio presso gli acquedotti. Pompando l'acqua, risparmiando l'energia, si diminuiscono anche gli sprechi, oppure sostituzione appunto di parti di processo di un'industria cartaria, oppure recupero di calore di un'industria alimentare o di un'industria tessile, oppure la sostituzione di bruciatori con uso di biomassa, che anche questa fa risparmiare. Ecco, come vede, sono tanti esempi concreti che le nostre aziende, le nostre industrie si sono, direi, scatenate a inventare, perché inventando sviluppano non solo una filiera produttiva migliore, e quindi risparmi per loro, ma anche hanno incentivi, come le ha detto, ben più economici di altri incentivi in giro in Italia, ma comunque interessanti. Ecco, per dare un'idea di quanto sono interessanti, queste operazioni tipicamente hanno tempi di rientro di quanti anni? Ma alcune si va da 2 a 4-5 anni come tempi di rientro. Quindi, insomma, del tutto compatibili, diciamo, con una logica di business, non parliamo certo di beneficenza. No. Quanto, secondo lei, di questa svolta dei certificati bianchi in direzione industriale dipende dalla riforma dei certificati bianchi da voi introdotta recentemente? Beh, un po' c'è l'evoluzione del sistema che si sta sempre più radicando. Un po', devo dire, è stata data proprio una svolta importante con valorizzando il coefficiente TAO, che valorizza gli interventi più strutturali. Andava fatto un cambio di passo ed è stato fatto, ripeto, sia diffondendo il meccanismo, facendo capire che non era solo una cosa che interessava piccoli interventi, ma sia soprattutto cambiandone le regole, e questo lo ha fatto appunto l'autorità di regolazione. Grazie Carbone, ci fermiamo qui. Riprendiamo però domani la nostra conversazione. Per intanto, grazie a tutti, buona serata.